Alberto Miguel. Atento. Gianni, mi ascolti del radio? Chi è che chiama? Avanti. Ciao Gianni, Michele sono. Ascolta, mi dai cortesemente un QRK del radio? Sono Marco, non sono Gianni, forse non è sul canale. A radio, diciamo, 4, capibilissima, leggermente bassina, leggermente. Aspetta un attimo, ti chiedo scusa, un attimo di pazienza. No, forse ha migliorato dal primissimo passaggio. Prova a vedere adesso, fa la cortesia. 1, 2, 3, 4, 5, dimmi se ha migliorato. Molto meglio, molto molto meglio. Questo è già fruibile, molto fruibile. Ok, vabbè, come segnale dovrebbe essere vicino, siamo vicini sicuramente. Come segnale c'è il fondo scala, tu, quindi siamo sicuramente vicini. Va bene, se hai un attimo di pazienza provo un altro microfono cortesemente, ok? Ma chi sei, Franco California? No, negativo, Michele Polverone, Ossidio 1, non so, io sono uno dei vecchi. Sì, va bene, prova questo mic, io sono qua. Perché metti a leccare? No, no, peggio. La radio è bassa, c'è come un innesco a frequenza altissima, che quasi non si sente a orecchio, però ti copre la radio. Guarda, è come un sibilo, è più un sibilo che un fischio. Ok, questo dovrebbe essere meglio, sì, perché ho adattato un SM30. 706, però non va bene. Va bene, dai. Devo aver sbagliato qualche collegamento. Ti ringrazio comunque. Ciao, poi se c'è qualcun altro sul canale che vuole dare un controllo magari più in distanza, avanti sul 10. Michele, senti? No, sono stranieri. Va bene. Ciao Michele, alla prossima, ciao. Ciao, buona serata. Ciao Michele, Polverone, un ex collega. Chi chiama? Avanti, Santiago Otto, chi è? Per caso, cosa d'Ottava? Non mi viene il nome. Certo, è proprio quello di Ottava. E anche a Michele, il Polverone, se ancora c'è. Gigi Vulcano, tu sei? Sì, sono io Michele, proprio in persona. Ciao Gigi, un abbraccio grande. Sto provando un microfono che ho adattato, però non va bene, avevo sbagliato qualcosa. Adesso mi ricontrollo tutti i parametri e tutto quanto. Ciao Gigi, piacere averti ascoltato, un grande abbraccio. Un abbraccio veramente grande. Buona vita, come si dice. A godersela a tutti e due, ciao. Grazie anche a Marco, altro amico. Va bene, dai, vai, buon proseguo la giornata. Ciao. Oh, penso stai uscendo bene, ecco, stai uscendo benissimo. Dove sei, Ottava? Sì, Ottava sono io. Perfetto, va bene, dai Gigi. Alla prossima, ciao, un abbraccio. Sì, ciao. E beh, Marconi, come va? Luigi Vulcano, non mi veniva il nome, si tira avanti. Oh Luigi, la passione è un po' calata, quindi è stato un caso mica aver sentito la chiamata adesso. 7 volte rimane acceso a volume molto basso, squelciato, quindi magari le stazioni basse non arrivano. Serve l'autosquelcia, no? Che ti toglie gran parte delle, però ti copre anche i segnali un po' bassi. Allora qui arrivi 8, però 8 di questo è come un 9, perché questo è taratto dalla President a 100 microvolt. E quindi segnano Santiago in meno di tutti gli altri apparati. Il Presidente, non lo so, sono fatti così, c'è scritto anche sul libretto. È una loro scelta, boh, non ne capisco il senso. Così, no, ma se c'è una cosa, no, tutti i privati saranno, infatti un paracchino normale, omologato, quelli che sono senza toccare niente, uno di quelli lì, capito, no? Sta uscendo con quei 4 passi e mezzo, 4, quelli che dà la casa, è un paracchinetto. ma precitava più che bene, precitava più che bene. Io non t'ho più sentito da parecchio, poi non so se sul 45 ci sia più attività di quel tipo, no. Però mi pare che sia andata in calo anche quella, molto molto in calo. Comunque sì, per la città quella parecchia va bene, la potenza pure, io non faccio testo che qua sono sempre. Sono sempre speziato un po'. È positivo, e guarda, 3 watt arriva a punte di 5, perché c'è qualcosa attaccato. Basta da 3 watt arriva a punte di 5, proprio non va oltre. Modulante arriva quasi a 5 di picchi, però è di PEP, no? Di cosa? Perché è PEP adesso, però neanche le avrebbe date quei picchi. Vedi la differenza? Adesso sarò, penso, a 3 watt, spero di arrivare a 3 watt, non ho lo strumento attaccato, però così è a livello di omologato, proprio di quelli secchi, stretti di potenza. No, io ti ascolto bene, il problema è che questa, lo Smith l'ho un po' tarato io, perché ho cercato di adeguarlo alle atterrate, ho capito, però non so se è molto preciso. La radietta non funzionava, io ho cercato di metterla a posto, da ne avevo 3 addirittura di queste qua, picche e rotte, e da 3 ne ho fatto una, e in poche parole questo forse in origine non ha fagliato, adesso è diventato un Intec, e allora di questo modello qua hanno fatto l'Intec, la Fayette e l'Ala. 3 radio precise identicamente, cambia solo il marchio davanti e il colore, quella elettrica è nera, quella era grigia, cambia solamente, se no il modello è preciso, dentro sono uguali, gemelle le radio. Figa. Va bene, e grosso modo come sono? Tu potresti essere tra l'8 e il 9, dai, con uno smitter normale, questo te l'ho detto un po' secco, poi a LED, LCD, no, non fa testo, eccetera. Almeno ci arrivo tra 8 e 9, o meno. No, adesso io ti ho detto, faccio affidamento a questa cosa, sei tra 7 e l'8, però non fagli affidamento, perché ti ho detto che ho un paracchinetto e l'ho regolato io, non so se voglio dire lo smitter, perché no, era fatto, non c'aveva segnale, gli ho portato ascoltandomi sulle altre radio, vedevo il segnale che saliva sulle altre radio, io ascoltando a voi parlando, ma uno a uno però se loro ho cercato di portarlo alla posizione giusta, capito? Eia. Ma io sono dunque un attacca, sì, potrebbero essere 3 watt. Conta che ho 50 metri di cavo sulle tastorie, quindi perderò parecchio, un terzo se non la metà della potenza, ma quindi siamo nella normalità, dai. Cosa ti volevo dire? Allora, io quell'operazione l'avevo fatta per il 3009, gli avevo tarato il Santiago 9 uguale a quello del K, per avere un riferimento grossolano, poi per gli altri segnali inferiori al 9 o superiori l'ho interpretato a modo mio, mi ero fatto un piccolo schema anche su come dovevano essere i controlli più o meno giusti, da Santiago, mezzo Santiago in più, mezzo Santiago in meno, bene o male. Doveva andare bene. Comunque il 9 gliel'avevo fatto proprio preciso al K. Adesso magari dopo tanti anni potrebbero essere starati, ma sembra che tengano. Sì, ma allora io di solito sto facendo sempre cose, sono impegnato in tante cose e non ho tempo delle radio. A volte adesso mi è capitato che oggi sono a casa, sono morto, la giornata non mi piace, mi dai. Ecco perché l'ho accesa, sentito la tapparossa, mi sono messo a mettere a posto il microfono, che ho acceso una radio e sentivo che scricchiolava, capisci? Allora gli ho messo un po' per i contatti, c'era il vappetto, stavo chiedendo la giaffitta e poi ho detto, come finisco, ho detto gli faccio chiamata. Infatti niente, non lo accendo mai, guarda, raramente l'accendo, perché a volte l'accendo ma non c'è nessuno, capito? Quando sono a casa, però arrivo sempre stanco, sto lavorando quasi più di quando lavoravo veramente proprio. Ma io ho sentito che ci sono giorni rari dove c'è un bel di gente, non l'ho sentito io, ma è stato riferito. Certi giorni entrava tanta gente assieme, poi altri giorni e giorni magari di mutismo assoluto, alcuni giorni di due o tre persone, così, però un'oretta, mi stanno mezz'oretta, un'oretta, poi alle 8 che va a pranzo, che va a portare il cane, eccetera, quindi c'è l'attività è ridotta veramente, ma veramente all'osso. Sì, positivo. Poi il 45 non lo so, io quest'anno proprio un giorno solo, un giorno ma pochi minuti ci sono stato, ho salutato una lingua e basta, però quasi non accendo quasi mai, proprio sono delle... A volte perché l'inverno, quando avevo qualche apparato da sistemare, che mi ha dato qualche amico e cosa, allora mi vede in capo così, però no, non c'era mai nessuno che mi ha dato controllo, non so questa la musica di quella verità, forse si vero. Io al limite se devi fare prove devi messaggiare qualcuno tramite WhatsApp per esempio, poi sei disponibile entra e fate le prove, se no voglia chiamare a voto qua. Oh. Sì, ma me le faccio tra me, mi metto le cuffie con un'altra radio e me l'ascolto su un'altra radio, capisco, faccio almeno riesco a... E poi con qualche strumento che ho me lo controllo lì, capito? E poi se sta uscendo male o cosa, grazie, me l'ascolto su un'altra radio, quindi faccio, se non c'è nessuno faccio così. Io mi ricordo poi che tempo fa, quando si entrava di più, tu avevi problemi di... entravi nell'impianto audio di quel market che c'è lì, ma l'avevi poi risolto o era rimasto tutto così per cui dovevi uscire con potenze basse? No, l'avevo risolto in parte perché avevo sollevato l'antenna e non dava più fastidio, ce l'avevo sollevata, però un giorno così mi si è rotto la spirale, vado a controllare e c'erano le spirale a 1000. Controllato, preso sul tetto, controllato, e c'era la spirale, vedete che allucino quella molla, che c'era attaccato, c'era rotta, c'era dissaldata, hai capito? E... lucido qualcosa, c'era mangiato e si è consumato, c'era attaccato. E allora l'ho dovuta abbassare, e allora quando l'ho riparata, dico la verità, quando l'ho abbassata, l'ho lasciata a portata di mano, non l'ho più sollevata. Ho fatto le prove, tutto stazionale perfetto, però entra nuovamente nel negozio, perché l'ho abbassata più del solito. E quale avevi tu di antenna? La Mantova 1, la 5 o la Turbo? No, la Turbo c'ho io, però gli mancano 3 radiali che sono caduti. Tanto la Turbo, guarda, ne ha più di quanti ne servono. Quello è il bello, anche se ne perdi qualcuno un po' qua un po' là a foglia, 4 credo che sia il minimo sindacale, questa addirittura ne ha 3, ma questa è un'antenna in plastica come la chiamiamo in tanti, eppure da 11 anni e mezzo che ce l'ho, non l'avrei mai detto, vabbè. Ma adesso ho visto il vicino di casa da un paio di settimane, 2 o 3 settimane, ho visto che ci ha messo un antennino sul tetto. Sicuramente, non so, io se sta entrando, no, ha messo una tipo una frusta, una cosa ha messo, no? Tipo la canna da pesca, come si chiama, una di quelle lì ha messo. E come va? Entro Sassari com'è? Ha fatto già prove per saperlo. No, la mia è sempre la Energy 5 ottavi, 3 radiali, che poi alla fine è una BA27L, alias Silver Road, 3 radiali, tutte uguali sono, Sirio, tutte uguali, marcate uguali, è la stessa antenna. Sì, questa c'ha 3 radiali, 3 o 4 radiali piccole che scendono in più, quella lì sta dicendo, e poi sale la frutta. Mi affaccio la svedo pure, però non lo so come va perché non l'ho detto nulla, l'ho visto, ho visto, non so se sta entrando il radio, se l'avete sentito, comunque ho visto che ha messo quell'antenna la 27, per la 27, non è un'HF, era per la 27. Allora dipende, allora se hai radiali corti, ma corti intendo tipo 30-40 centimetri, può essere la Venom, anzi sicuramente la Venom. Invece la mia ha i radiali classici alluminio da 1,30 m ciascuno. No, queste saranno 30-40 centimetri, non di più, sono corti sono. Ed è tipo una frusta in mezzo che sta attaccata al tubo a fianco, capito? No, no, è piccola, è lunga, sarà 2 metri lunga, non di più. È già questi radialini che c'entrano il tubo. No, allora non è nemmeno la Venom per come l'hai descritta, magari è una cosa autocostruita, fatta da lui e seguita da qualche progetto. Poi le Venom hanno fatto un pasticcio perché hanno fatto la 5 ottavi senza radiali, cioè la fanno la 5 ottavi con i micro radiali, senza radiali. Poi hanno fatto la mezz'onda senza radiali come dovrebbe essere e con i 3 radialini. Hanno fatto di tutto un po', io non so come risuonino poi, come bisognerebbe vedere il lobo di radiazione e tutta quella roba lì. E poi comunque la Venom ha una bobina ridicola, non so se tu l'hai mai vista, ne avevamo parlato tante volte. Praticamente è presente l'anima del rocchetto, del nastro adesivo, l'anima di cartone del rocchetto. Tu hai una cosa del genere, può darsi che non sia in cartone ma sia in fenolico eccetera, e c'è avvolto intorno come bobina un filettino sottile che sarà un millimetro di diametro, un millimetro di spessore, una bobina proprio così risicata. Infatti non tiene potenza la Venom, cioè ci puoi mettere quei 100 watt in AM, in SSB, anche 150, ma se li metti già 200-300 watt quella ti parte, non... eppure funzionano, la stazionaria, la resa naturalmente non è paragonabile assolutamente a una Mantova, tanto il riferimento è sempre quello, la Mantova è il modello di riferimento. Però per chi vuole spendere meno di poco va più che bene, leggerissima, non devi tirantare, a meno che tu non gli metta un palo di 8 metri, vabbè, quello è un altro problema. Vai Luigi. È positivo. Comunque non so se l'avete ascoltato questo tratto, un po' penso che già l'antenna avrà parlato con qualcuno, non lo so, io non sono mai entrato, però penso che aspetta, il nominativo com'è? No, io di nome mi pare Pino o Pinuccio, una cosa così, mi pare che si sia di nome fa. Sì, boh, guarda, francamente anch'io non entrando molto, a meno che non abbia uno pseudonimo nominativo, non te lo saprei dire, anzi credo che fossi l'unico attivo in quella zona lì. No, ripeto, questo c'è stato 3 settimane che l'ho notata io, la prima non c'avevo, lo vedevo sul tetto, perché ce l'ho di fronte a casa io, no? Lo vedo dal terrazzo mio per vedere. E lo vedo. Aspettavo che stavo facendo lavori, invece poi questo lo sguardo metto l'antenna, questo è col capo che scende giù, qua ci l'ha piazzato il baracchino, pensavo che perché è un'antenna da baracchino, no? Non è un'antenna per la diamantura, come si chiama, per cosa è l'antenna per la 26, capito? Io. Certo che 2 metri, cioè una cosa così corta, vabbè, sarà caricata, quello che... Ma ho pensato anche che fosse un'autocostruita per ascoltare i radiatori almeno. 2 metri, così ho sentito prima, mi sembra un po' poco, vabbè, caricatissima, si può fare, tutto si può fare, naturalmente a discapito della resa. Te lo dico, guarda, la faccia te lo dico, sarà fine per te, dico più o meno l'altezza, quanto è, quanto è radiale in salve. Sì, che altro c'è sul 10, avanti. Ma 2 metri e 20, c'ha 3 radiali da circa 45, 3 radiali, cioè. Ma che strano. Sì, potrebbe essere anche una VEU, una cosa autocostruita, oppure per la 26, ma francamente bisognerebbe chiedere a chi entra più spesso se hanno sentito questo Pino, o come era il nome che hai detto, vabbè, io poco sto entrando e quindi niente da fare. Va bene, comunque sì, oggi giornata brutta, piovosa, anche io devo fare roba, ho lasciato perdere. Speriamo che domani non piova, che poi quando piove c'è un bel traffico, gente che non fa altro che, cioè, inchioda in macchina, poi slitta sull'asfalto e ti viene addosso, capito? Non sanno regolarsi in base all'asfalto bagnato, viscido, gente che truba, poi inchioda all'ultimo e ovviamente la macchina non la fermi così all'istante, scivola e poi ti zemba. Lo so, è questa la specie di una cosa. Ma qua vicino a casa stanno asfaltando tutto il giorno, che sono pettinato e asfaltando, poi questo asfalto va bene che ne salta. Ma l'avevo fatto un paio di l'anno scorso, mi sembra che era asfaltato, o un anno e mezzo fa, quella via lì, adesso l'hanno arrabbiata e me l'hanno fatta piovendo oggi, stava piovendo, pettinato. Pure, e chissà quanto durerà l'asfalto nuovo allora. Ed è una via chiusa per che non ha uscito di tornare indietro. Ma c'è il traffico, non lo so, sicuro che l'hanno tutto raffiato, stavano a campetto. Adesso non li sento più, vuol dire che sono fermati proprio perché sono fatti un pezzinato. Ho provato a chiamare prima se c'era qualcuno all'ascolto, ma non. Poi da quando era mancato Coso, purtroppo lui era anche abbastanza attivo, rimaneva in ascolto. La mattina riuscivi a chiacchierare e c'era lui all'ascolto, capito? Adesso non fa più. Ma chi stai parlando? Natalino. Ma perché? Cosa è successo perché Natalino? È passato a miglior vita prematuramente. Purtroppo aveva una cosa grave, aveva i particolari, casomai chiedili in privato a qualche CB, dai, che qua è brutto, e ha sofferto, dai, non chiudiamo il discorso. Non so perché non sono entrato in radio, però io mi sono una busta che oggi ho parlato di radio, che sono entrato in radio a parlare di radio. Perché non adesso sono da tanto che non vi ascoltavo, sono mesi che no. Mi ricordo anni dietro parecchio, avevo un problema che era stato fatto per miracolo, che avevo fatto se non chiamare la procuranza, se no facciamo gli anni fa, però tanti anni fa. Mi è sembrato di sentire un break, avanti. Ciao Marco! Poi, dal segnale, dalla voce, mi sembra Carlo. Ebbene Carlo, rientrato, avanti. Non credo che mi senti forte, siamo vicini adesso, Marco. Ah, hai cambiato QTH, interrogativo. Sì signore, buonasera anche agli altri che non riesco a sentire perché sono in una situazione provvisoria, un attimino buttato così. Sul terrazzo, capito. Buonasera a tutti, buonasera Marco. Ehi, guarda, ti rilancio, Luigi Vulcano da Ottava, così vediamo se arrivi da lui. Tanto la zona, e poi mi dici se puoi, dove sei. Avanti Luigi. Oh Marco, non lo sento proprio io, è in mezzo a QRM, ho capito che se non hai detto Carlo, ma Carlo Alghiero mi pare, ho sbagliato tutto. Io lo ascolto, ma non penso che mi ascolti anche lui perché sto uscendo con una radiolina di niente. Carlo, se mi ascolti, ma è stato difficile, perché io a te non ti ascolto. Sì, Luigi, ti ascolto passo passo, però riesco a tirarti fuori perché c'è un po' di QRM. Sì, io da Sassari, non da Alghero. Cioè, sì, hai ragione, un Carlo anche che tempo fa ci ho parlato anche io di Alghero. Allora, Luigi ha detto che ti copia basso basso anche da non capire quello che dici, ha capito il nome, vabbè vuol dire che un po' l'antenino cos'è da macchina, magari è un po' basso, se si potesse addirittura arrivare al tetto sarebbe meglio, una cosa provvisoria. L'importante è che ci abbia un po' di massa, tipo una ringhiera, qualcosa in ferro mi, per fargli la massa. Vai Carlo. Sì, riprendo, adesso sto uscendo più forte, non so Luigi se mi senti. Sì, l'antenna ce l'ho sulla, attaccata alla ringhiera e fa massa bene, capito, già riesco a parlare un po' con un po' con tutti qua a Sassari, forse la zona di Ottava è un po' più negativa. Dimmi se mi hai sentito a questo passaggio. Luigi, l'hai copiato adesso, ho aumentato la potenza. All'inizio stavo sentendo che sono arrivato che ha messo attaccata la ringhiera e poi c'è entrato uno straniero che lo copriva. Ma diciamo è Carlo che parlavamo anni fa, è lui, il stesso Carlo stiamo parlando. Chiedi se è lui. Ehi, Carlo ha chiesto se sei quello con cui parlava anni fa. Non so, Carlo di Sassari, perché c'è anche il Carlo di Alghero, mi pare. Sì, sì, positivo, ci siamo sentiti tante altre volte con Luigi, altre volte, sino a un anno fa, diciamo, poi ho cambiato QTH e adesso sono in questa situazione. Luigi, se mi hai copiato, dimmi un po'. In questo passaggio proprio ti ho sentito chiaro chiaro, dai, perché non c'erano altre propagazioni di stranieri in mezzo. Io ho capito, ma sei a Sassari tu? Non ho capito se sei a Sassari o in questo momento scusi anche via Sassari. Sì Luigi, sono a Sassari, via Brunizzetta proprio all'inizio. Ah, positivo, però ascolta, pure Marco, ecco il problema mio cos'è, mancandomi questi radiali, quando ho passato l'antenna non c'ho più quella ricezione che c'avevo una volta, hai capito? Non ce l'ho più perché l'ho passata parecchio l'antenna, è troppo vicino al tetto e non c'ho più quella recessione che avevo prima, capito? Ehi a Luigi, dovresti provare a alzarla un po', alzarla magari non al massimo, insomma quanto più puoi, e allora migliora tanto la situazione. Adesso non ho il 3009 a portata di mano, sennò avrei fatto il paragone di come arrivavi liscio all'epoca e liscio adesso, però siamo lì. Comunque Carlo, il fucile tuo è veramente forte, giù mai, se sta con l'antenna arrivi, poi se sei lì all'inizio. L'antenna, guarda, i palazzi dovrebbero essere a 50, forse 60 metri di distanza. Sicuramente l'antenna mia, le antenne si vedrebbero se fossero tutte e due sul tetto. Sì, sì, esattamente Marco. Tu che conosci questa zona, via Brunizzetta, proprio come inizia c'è quella piccola pizzeria, di fronte c'è una palazzina piccola gialla, io abito lì. Palazzina gialla. Ma recente, di fattura abbastanza recente, per caso quella con le colonne a base cilindrica? Esatto, hai azzeccato Marco. È molto carina quella, molto ma molto carina, sì, noi saremo a, guarda, le antenne saranno a 60 metri di distanza, una volta che la piazzerai sul tetto, poi mi dirai se sai nulla, se come funziona lì, insomma, ecco. Se sono ben disposti, tanto in realtà non dovresti neanche chiedere autorizzazione al condominio, se li vuoi informare li devi, li puoi solo informare, li puoi, non li devi, è tutto lì, poi bisogna vedere se di proprietà, se è tutta parte comune, già lo sai, no? È positivo, devo vedere un po', penso non c'è un accesso diretto qua sul tetto e che si debba salire dalla proprietà di chi abita all'ultimo piano, capito? E non so pure se c'è la possibilità di, insomma, mettere un palo anche piccolino, capito? Tanto non è che voglio salire chissà dove, però chiederò, sarà una delle prime cose che chiederò appena trovo la persona interessata e poi ovviamente avviso un po' tutti, tanto metterò magari un'antenna anche modesta, se riesco metto quella che avevo, per carità, perché era un'ottima antenna e quindi adesso devo un pochettino vedere. Per adesso mi sono sistemato così, capito, l'antennina attaccata alla ringhiera, fa massa bene, capito, riesco a parlare con Claudio, con Gianni, insomma un po' con tutti, dai, stazione, zona via l'Italia, arrivo un po' dappertutto. scusate che mi è cascata una cosa a terra, ho dovuto raccoglierla. Luigi, c'è ancora? Masso che non può distrarre. Mi ha chiesto qualcosa, ho detto Luigi, non ho capito se è a riprendere o mi ha chiesto qualcosa. No, era per riprendere, così per fare girare. Sì, lui adesso ha l'antennino, presumo sul balcone, terrazzino. Terrazzo forse intende terrazzino, non forse sul tetto, sul terrazzo inteso come tetto del palazzo, ecco. Però ha tenuto la sua antenna vecchia, la famosa J-Pol, di cui non ricordo mai la marca. Ma è fatto bene comunque a tenerla, tanto è buone condizioni, è nuova, perché è seminuova, quant'è che l'avevi tenuta? Un annetto o di più? Sul tetto è rimasta un annetto, perché prima avevo la Sirio SD27, che era quel dipolo che si può mettere in polarizzazione verticale oppure orizzontale, che andava comunque bene messa in verticale, capito? E poi avevo messo la J4 della Smartech, capito? E andava ancora meglio, ovviamente. Adesso vedo un po', appena avrò il tempo necessario e se riesco a fare un piccolo sovralluogo, capito? Poi migliorerò la mia situazione di trasmissione, capito? Sì, comunque guarda, per la città, se dentro la città comunque riesci a modulare senza problemi, è già grasso che cola. Tanto anche dalla macchina uno dentro la città riesce a comunicare comunque, quindi è buono. Poi ricordati, se vuoi vai su internet, non mi ricordo se era sul sito del Ministero delle Comunicazioni, comunque lo trovi, diritto di installazione di antenna, no? È una breve prefazione su quello appunto che puoi fare, capito, che non richiede autorizzazioni particolari, e poi un diritto, è già detto il termine, spiega tutto, Carlo. L'importante è magari non, diciamo, se uno c'ha una veranda sulla terrazza, di non interferire insomma con le normali attività o le normali strutture, eccetera eccetera. Google lo trovi su internet, lo puoi stampare nel caso che volesse vederlo anche l'amministratore, è meglio averle queste cose. Sì, già sono abbastanza informato, grazie comunque Marco. Luigi c'è ancora? Luigi c'è ancora? Magari lui quando, sa cos'è, quando c'è propagazione un po' ti coprono, anzi secondo me con 3 watt coprono anche me in propagazione, saranno 2-3 watt, è tutto al minimo qua al momento. Luigi? No, Marco, ci sono. Quindi lui si organizzerà appena potrà, insomma, impegni permettendo, lavoro permettendo, eccetera, condominio permettendo, vabbè. Quello è, diciamo, una piccola via crucis che si deve fare all'inizio, Carlo, all'inizio quando installi e anche nei mesi a seguire, perché qualcuno lamenterà che qualche canale salta, come da tutti, e diranno magari che l'antenna del coso, ma sappiamo che magari non è così. L'importante è che sia bella, cioè che sia fatta bene sia l'antenna TV che l'antenna del baracchino, che sia installata come si deve. Ma io ho poi fatto, te l'avevo detto forse, avevo fatto dei test per riuscire a disturbarmi la TV. Avevo messo il microfono lineare senza filtro, quel filtro famoso passa basso, ho bloccato col mic da tavolo, sono andato per tutti i canali, niente, non c'era interferenza. Avevo chiesto anche a quello dell'ultimo piano, che aveva l'antenna TV attaccata alla mia antenna, proprio se voglio dire attaccata, 50 centimetri di distanza. Ho chiesto, ma per caso disturbava? Mi ci ha avuto disturbi particolari in questi giorni, perché io stavo facendo quelle prove. E lui mi ha detto, no, nulla, tutto si va detto bene. Quindi, come vedi, se l'antenna TV è fatta bene, non dovresti interferire, a meno che qualcuno non abbia un kilowatt, vabbè, lì comincia a essere diverso il discorso. Vai Carlo. Sì, dimmi come mi senti di radio, se un po' appiattita dalla troppa potenza oppure chiara, Marco? No, no, bene, niente da dire. Al limite potrebbe esserci un effetto di saturazione dello stadio di ricezione, ma dovuto alla vicinanza eccessiva, perché lì siamo proprio a un tiro di sputo. Prima eri vicino, adesso sei proprio vicinissimo. Va bene. Che altro dire? Luigi, vai, vado a bere un attimino. Luigi, riprendi con Carlo un attimo. Allora, io ci avevo un camion, una 5.000 turbo, però ci avevo qualche apparato preparato, perché facevo camion e viaggiavo parecchio. Questa 5.000 turbo sul tetto del camion, sul fianco era addirittura con la stampa. Io a volte con Claudio, forse Claudio l'avrei sentito, Andrea Valdiero, io parlavo anche da Santa Giusta, lui riusciva a parlare con me, da Oristano, qui da Santa Giusta, ma com'è, parlavo quasi tutti in questi distanti, però mi ascoltavano tutti da ma com'è, con questa 5.000 turbo, ma c'aveva una ricezione, una cosa a 20 anni. Poi che sono andato in pensione, che l'ho tolta dal camion, l'ho venduta a un amico a mettersela in cambio, se no quella mettivi sul tetto forse funzionava più di questa che c'ho io, lo sai. C'era una ricezione, spingeva maledettamente, teneva fino a 5.000 watt, non era 5.000 turbo. Sì, quella veicolare, quella era un sogno, quella me l'avevo corteggiata anch'io, però poi non aveva senso perché è talmente lunga, è talmente grossa e pesante, e poi io non uso watt in macchina, non uso kilowatt, sì, potrei usare quei 50 watt in più, ma tutto finisce lì, era troppo impegnativa per me, quello la vedo meglio sui camion, ma su una macchina è veramente, veramente eccessiva. Senza contare, a seconda di che ramo prendi, ti storci anche la lamiera se la metti a centrotetto, no? È un macello. Flette fino a un certo punto, però poi fa forza anche sull'attacco alla base. Ok. Carlo, riprendi. Sì, Luigi, l'ho sentito un po' a tratti, perché a volte sale il QRM, altri rumori, quindi... Però più o meno ho sentito tutto, Marco, invece tu mi arrivi qua, proprio fondo scala, 9.30, chiara e pulita la tua radio, è come se fossimo proprio affacciati alla finestra parlando. Sì, sto utilizzando il presidente McKinley, che ha una timbrica abbastanza fedele, sì, non amplifica, c'è il mic originale a condensatore, però almeno è una timbrica abbastanza fedele, tanto io sai che radio spacca orecchie non ne ho mai utilizzato, ogni tanto l'amplificato si può alzare un po', ma sempre nel coso della decenza, dai. Volevo dire a Luigi, cerca se puoi di entrare così permettendo, quando vuoi trovare gente, impegni permettendo, verso le 7 di sera, guarda che Claudio Spraviero ha iniziato a rientrare, almeno così me l'ha detto, e lui entrava a salutare ogni tanto, adesso quando può anche lui modula in 27, è rientrato un po', non tutte le sere magari, però dovresti riuscire a beccarlo verso quell'ora lì, tipo tra le 7 e le 8 di sera, vai Luigi. Marco, io quell'ora lì mai, a te perché posso accendere e ascoltare solo, infatti una sera l'ho accesa c'era Claudio, però non posso, perché questo negozio chiude dopo le 8, oppure le e allora quell'ora lì non posso entrare, non entro perché mi ha sentito nel supermercato, capito? La taglia la tua, capito? Ascolta, avete provato in FM? Perché in FM potrebbe risolversi quasi del tutto, se non del tutto, l'interferenza nelle casse, nell'amplificazione, lo sai? Ma di solito sono sempre in FM, non sono in AM, di solito sono in FM, o anche vado a laterare qualche volta, capito? Sì, l'FM è più contenuta, a patto di rimanere nei parametri della deviazione di 1,8-2 kHz, così insomma, moderazioni normali. Va bene, certo, non si cattura, amico, non c'è un'attività commerciale che non puoi mai modulare. Vabbè, di notte non so chi sia, cioè di notte non so chi stia entrando, se stiano entrando, perché io poi mi attacco alla TV, mi metto film miei o mi guardo qualcosa in streaming, eccetera, dai. Volevo dire, Carlo, qual è quello, il 9009, per saperlo? Allora, no, adesso sto modulando con un president piccolino, il president Deal, capito, che mi eroga solo 4 watt e quindi se attacco appena appena i 4 watt vanno bene. Se invece attacco il 9009 va in saturazione, capito, perché quello dà troppa potenza e quindi sto utilizzando questo piccolino per adesso. L'altro mi riserverò eventualmente a utilizzarlo quando riuscirò a mettere l'antenna sul tetto, spero, e così non sto attaccato a niente, perché quello là, il 9009, ha anche la potenza regolabile, capito? Un attimo di pausa, Carlo. Bene, bene, già sono qua in ascolto, Luigi, non ti rilancio perché ti sento un po' a fatica, purtroppo. Spero di poterti risentire magari quando avrò sistemato qua tutta la stazione. Se riesco, ben volentieri. Positivo, Carlo, positivo. No, intanto io adesso alle 5 apro il supermercato e chiudo sempre. e fino alle 8 e passare non posso... E più dalle 8 e mezza poi il supermercato, capito? Allora quell'ora lì che ci sono qualcuno che è in radio non poteva. Prima entravo perché ce l'avevo l'antenna alta, poi l'ho abbassata ma l'ho portata più su. Con la paura del vento che me la buttasse su perché sono caldi, sono troppo caldi e qua sul tetto in alto è un casino. E l'ho abbassata di parecchio, è per quello che ho poca ricezione e... È una trasmissione lo stesso, però potrei fare di più, però non ne accendo neanche le altre radio, capito? Non le accendo più. Comunque anche questo è un preside, però non mi ricordo qual è perché c'è la macchina dell'Inter. Sono tre modelli di questi baracchini che sono usciti. Questo è un vecchia razza. Comunque facevano l'Inter, l'ANA e il preside, sono gemelli, capito? Solo cambia le sfide, le mascherine e basta. Però è un preside questo qua, l'avevo cambiato io poi i compiti e le cose dell'internet, però è un preside, però non mi ricordo il modello. Sì, ho capito Luigi, allora in radio praticamente intorno 6:30, 7 c'è sempre qualcuno sino alle 8 di sera, capito? Di notte qualche volta ho tenuto acceso ma non entra quasi nessuno. Poi c'è il canale 15 che si è un po' attivato ad Alghero, capito? Ci sono molti CP che hanno ripreso i vecchi CP, perché ho un amico, collega di lavoro, che è anche radioamatore, e lui mi ha detto che tante persone hanno rimesso l'antenna, hanno fatto la stazione e stanno sul 15. Adesso non vorrei sbagliare se stanno anche loro in AM oppure in FM. Io prima ci parlavo con Alghero, ovviamente con l'antenna grande, e mi sentivano Santiago 8-9, però adesso non sento più niente da Alghero, capito? Purtroppo che rimarrò in questa situazione, dovrò accontentarmi delle quattro chiacchiere cittadine, capito? Però per adesso è già qualcosina per me, magari ho ripreso, adesso riesco a avere anche qualche attimo di tempo in più e niente, e così è. Rimango in ascolto poi quando rientra Marco, che lui lo sento molto bene perché siamo vicini di casa ormai, e quindi appena rientra Marco poi magari mi fa anche da fonte lui per qualche passaggio che non riesco a sentire da te. Certo, tu se hai una situazione anche tu di antenna un po' bassa e forse per quel motivo lì che non ti sento. Mi ha fatto piacere comunque dopo tanto tempo, Luigi, risentirti, capito? Con Marco magari ci siamo risentiti qualche altra volticina, perché io ho modulato anche dalla macchina qualche volta, capito? Andando a lavorare o ritornando da lavorare. E adesso ero circa un annetto che avevo staccato tutto. Ho sistemato un po' casa qua e quindi mi sono fatto una bella scrivania in camera da letto. adesso mi va bene così. A te Mike, Luigi oppure Marco se sei rientrato. Adesso vediamo se è rientrato Marco, se è rientrato. No, non è rientrato. No, niente, io la notte che sono disponibile proprio per quel motivo lì, ma poi dopo le 8:30 non c'è più nessuno, capito? Ecco perché non mi sento. Prima con l'antenna più alta non andavo fastidio, entrava tutte le ore quando avevo capito. Però a parte sono impegnato anche un po' facendo i lavori a miei figli e via dicendo, e durante il giorno no. Però a volte la notte niente, mi guardo la televisione perché tanto so che non posso parlare a baracchino, che do fastidio, allora ecco per tutto qua, capito? Non mi faccio sentire per quel motivo lì, non perché a parte non c'è quasi più nessuno, neanche durante il giorno non senti più nessuno, prima era tutti i canali erano pieni. Io fino a che ci lavoravo io fino al 2015, sono andato in pensione nel 2015, io viaggiavo in camion a Cagliari, anche sul continente, ma era pieno di tutti quei paesi, passavo Terralba, Oristano, tutte le zone di Cagliari, tutti avevano baracchino, c'erano tutti Marrubio, tutti che non c'erano il baracchino, tutti in casa. Ma se Carlo non ti sento più, dai, se riesci a ascoltarmi ti saluto, dai, mi ha fatto piacere, salutami a Marco quando rientra, dai. Eccomi, rientrato, scusate, stavo ero al telefono, va bene, adesso stacco anch'io. Lui, mi ha fatto piacere sentirti dopo parecchio tempo. Idem per Carlo, lo rilancio, riprendi Carlo. Non penso, è chiuso alle 8. Ah, io ho parlato in non posso fare altro, dai, ne approfitto a salutarti Marco, mi ha fatto piacere, un bel po' di tempo non ci sentivamo. Comunque saluta tutti, se capita che ascolti qualcuno in radio, saluta la parte mia, capito? Ciao Carlo, dai, statemi bene, fate buon proseguo della serata. E io, vai Carlo. Ciao Luigi, ci sentiamo alle prossime, già mi ha fatto piacere anche a me, come ti ho detto prima. Speriamo di risentirci presto, in condizioni migliori ovviamente. Riprendi Marco. Cappa, ciao Luigi. Allora, abbiamo parlato assieme poc'anzi e ho detto le stesse cose che hai detto tu praticamente, l'ho sentita alla fine. Mi è fatto piacere sentirti dopo parecchio tempo. E ci sentiamo in migliori condizioni, come sempre, come dico, e non arrivano mai. Carlo, vai. Quindi, hai detto, non c'è un accesso diretto al tetto lì, al terrazzo, ma nemmeno una botola, come funziona lì? Io sono salito su tempo fa e praticamente finiscono le scale e c'è il portone dell'appartamento, capito? E quindi immagino che l'accesso al tetto sia o dal terrazzo di chi ha l'ultimo piano, perché dove abito io al secondo piano c'è dopo sopra di me c'è una piccola mansardina, invece nell'altra ala del palazzo c'è un piano in più, è un po' diciamo sfasato il palazzo come altezza, c'è l'angolo che dà su via Pola che è più basso, invece la parte di via Plumizzetta, perché fa l'angolo, è più alta, capito? Comunque sono in tutto quattro piani e penso che l'accesso sia dal terrazzo. Appena incontrerò il proprietario chiederò, ma l'antenna TV come è messa, dove è messa e da dove si accede, eventualmente se io volessi installare una piccola antenna per diciamo sei già ottimo, ottimo. Avrei già un buon rapporto, un buon rapporto. Via. E qua la situazione, poi vabbè, la sapevi, praticamente il terrazzo è diviso in due parti ed è di due proprietari diversi. Due proprietari diversi. Il mio palo però è le zanche sono installate.